Il lupo e la volpe, da Favole, Dicende la Fontaine, tradotto da Emilio De Marchi, registrato per LibriVox.org da Paolo Fedi, settembre 2007, Roma. Pel vecchio Esopo, sola la volpe è mariola ed ogni furberia grande maestra. Per conto mio non vale, men ogni altro animale, compreso il lupo, in furberia, per poco che sia la vita in gioco. Ma questa volta ancor, tra l'una e l'altra, la volpe fu più scaltra. Una volpe una sera vide in fondo ad un pozzo il bianco cerchio della luna e la pigliò per un formaggio tondo. Eran sospese al pozzo per fortuna due secchie che scendevano a vicenda e la volpe, scendendo in fondo ad una, vi si lasciò calar, ma la faccenda divenne brutta quando, giunta in fondo dell'illusione, le cascò la benda. Perché come salir nel chiaro mondo se non venia qualche altro che credesse per appetito quel formaggio tondo e che nell'altra secchia discendesse? Due giorni stette dentro al buco nero senza che un nero can la vedesse. Il tempo, che fa sempre il suo mestiero, andava intanto trasformando il volto di quell'astro d'argento lusinghiero. Pensate or voi se l'animal sepolto doveva soffrir di fame e di dispetto in bocca a un pozzo e in una secchia colto. Quando venne a passar, forse costretto dalla gran fame, il lupo e si fermò a contemplar quel luccicante oggetto. La volpe, o camerata, a lui gridò, vedi tu questa cosa un po' lucente, è un formaggio che fauno fabbricò, un formaggio divino ed eccellente, fatto col latte, Dio, vacca famosa, e Giove, quando fosse un po' soffrente, se mangiasse un pochin di questa cosa, sarebbe in un momento risanato, tanto squisita e tanto appetitosa. Io stessa non ho uno spicchio rosicchiato, lo vedi, ma ne resta, se lo prendi, ancora un bel boccone prelibato. Ho lasciato una secchia or via discendi, e il lupo, che credette al suo buon cuore, discese col suo peso, tu comprendi, che la volpe dal pozzo trasse fuori. Non ridiam, che sovente a noi succede di mangiar quel formaggio anche peggiore, che facilmente l'uom di buona fede, da ciò che lo lisinga e lo spaventa, si lascia affascinar e spesso crede nel diavolo lo stesso che lo tenta. Fine della favola, il lupo e la volpe. Questa registrazione è di dominio pubblico.